«Sei sicuro?» mi chiese, «che io possa offrire così a quella donna 30.000 franchi per il comitato elettorale del marito? È disonesta a tal punto!» «Se non ti sta ingannando, 3.000 franchi basteranno!» «No, ti prego, non tirare al risparmio su una cosa che mi sta tanto a cuore! Ecco cosa le devi dire, del resto c'è una parte di verità. Il mio amico aveva chiesto questi 30.000 franchi a un parente per il comitato dello zio della sua fidanzata. È appunto per questo, per il fidanzamento, che gliel'avevano dati. E aveva pregato me di portarveli perché Albertine non ne sapesse niente. E adesso ecco che Albertine lo lascia. Lui non sa più cosa fare. Se non sposa Albertine, è costretto a restituire i 30.000 franchi. E se la sposa, bisognerebbe che lei, almeno per la forma, tornasse immediatamente, perché farebbe troppa cattiva impressione se la fuga si prolungasse. Credi che l'abbia inventato ora? Ma no, rispose Saint-Loup per bontà, per discrezione, e poi perché sapeva che le circostanze sono spesso più bizzarre di quanto non si creda. Dopotutto, non era affatto impossibile che in quella storia dei 30.000 franchi ci fosse, come gli dicevo io, una gran parte di verità. Era possibile, ma non era vero. E la parte di verità era per l'appunto una menzogna. Ma ci mentivamo, Robert e io, come in tutti i colloqui in cui un amico desidera sinceramente aiutare l'amico in preda a un dispiacere d'amore. L'amico che consiglia, appoggia, consola, può compiangere la disperazione dell'altro, non provarla, e più è buono con lui, più mente. E l'altro gli confessa quanto gli serve per essere aiutato, ma forse proprio per essere aiutato nasconde molte cose. E felice comunque è chi si dà da fare, affronta un viaggio, assolve un incarico, ma non ha sofferenze interiori. Ero in quel momento quello che era stato Robert a Doncières quando s'era creduto abbandonato da Rachel. Insomma, come vuoi tu. Se mi prendono a pesci in faccia, lo accetto sin d'ora per amor tuo. E poi, per quanto mi sembri un po' bizzarro questo mercato così senza veli, so benissimo che nel nostro mondo ci sono delle duchesse e anche delle più bigotte che per 30.000 franchi farebbero cose più difficili che dire alla nipote di non restare in Touraine. E poi sono doppiamente contento di poterti essere utile, dato che non ci vuole di meno perché tu acconsenta a vedermi. Se mi sposo, aggiunse, non è vero che ci vedremo di più? Che farai un po' della mia casa la tua? E si interruppe, pensando improvvisamente, supposi allora, che se mi fossi sposato anch'io, Albertine non avrebbe certo potuto diventare intima di sua moglie. E ricordai quel che mi avevano detto i Cambremer del suo probabile matrimonio con la figlia del principe di Guermont. Consultato l'orario, vide che non sarebbe potuto partire prima di sera. Françoise mi chiese, «Si deve togliere dallo studio il letto di Mademoiselle Albertine?» «Al contrario», risposi, «bisogna rifarlo!» Speravo che sarebbe tornata da un giorno all'altro e non volevo che Françoise potesse nemmeno supporre che la cosa fosse dubbia. Bisognava che la partenza di Albertine sembrasse qualcosa di concordato fra noi che non implicava in alcun modo che lei m'amasse di meno. Ma Françoise mi guardò con un'aria, se non incredula, perlomeno dubitosa. Aveva anche lei le sue due ipotesi. Le sue narici si dilatavano, fiutava il litigio. Probabilmente lo sentiva da molto tempo. E se non ne era del tutto sicura, era soltanto, forse, perché al pari di me non si fidava a credere fino in fondo quanto le avrebbe fatto troppo piacere. Adesso il peso della faccenda non gravava più sul mio spirito affaticato, ma su Saint-Loup. Ero in preda a una specie d'esultanza, perché avevo preso una decisione, perché potevo dirmi «ho ribattuto colpo su colpo». Saint-Loup doveva essere appena salito sul treno quando, nella mia anticamera, mi imbattei in Bloch, che non avevo sentito suonare e che fui dunque costretto a ricevere per un istante. Ultimamente mi aveva incontrato con Albertine, che conosceva dai tempi di Balbec, un giorno che lei era di cattivo umore. «Ho pranzato con il signor Bontemps», mi disse, «e dato che ho su di lui una certa influenza, gli ho detto quanto m'aveva rattristato che sua nipote non fosse più gentile con te, che era suo dovere pregarla in questo senso». Soffocavo di rabbia. Preghiere e lamentele del genere distruggevano tutto l'effetto della spedizione di Saint-Loup e mi chiamavano direttamente in causa agli occhi di Albertine, con la quale facevo la figura di implorarla. Per colmo di sventura, Françoise, rimasta in anticamera, sentiva tutto. Rivolsi a Bloch ogni possibile rimprovero, dicendogli che non l'avevo certo incaricato d'una simile commissione e che, del resto, non c'era nulla di vero. Da quel momento in poi Bloch non smise più di sorridere. Non tanto, credo, per la gioia, quanto per l'imbarazzo d'avermi contrariato. Si stupiva ridendo d'aver provocato tanta collera. Forse lo diceva per diminuire d'importanza ai miei occhi la sua indiscreta iniziativa, forse perché era vigliacco di natura e portato a vivere allegramente e pigramente nelle menzogne come le meduse a fior d'acqua, forse perché, se anche fosse appartenuto a un'altra razza d'uomini, gli altri, non potendosi mettere dal nostro stesso punto di vista, non capiscono la gravità del male che possono farci le loro parole dette a caso. L'avevo appena messo alla porta, non trovando nessun rimedio a ciò che aveva fatto, quando suonarono di nuovo e Françoise mi consegnò una convocazione dal dirigente del commissariato di polizia. I genitori della bambina che m'ero portato a casa per un'ora avevano pensato bene di denunciarmi per sottrazione di minore. Ci sono momenti della vita in cui nasce una sorta di bellezza dalla molteplicità dei fastidi che ci assalgono, incrociati fra loro come leitmotiv wagneriani, nonché dalla consapevolezza, a quel punto emergente, che gli avvenimenti, lungi dall'essere situati nell'insieme dei riflessi dipinti dentro il povero, angusto specchio che l'intelligenza tiene davanti a sé e chiama avvenire, se ne stanno al di fuori e sorgono bruscamente come chi sopravvenga a constatare un flagrante delitto. Già lasciato a se stesso, un avvenimento si modifica, sia che l'insuccesso ce lo amplifichi o che la soddisfazione lo riduca, ma è raro che sia isolato. I sentimenti che ciascuno di essi suscita si contrastano e in una certa misura, come sperimentai recandomi all'ufficio del dirigente, la paura è, almeno momentaneamente, un revulsivo abbastanza efficace nei confronti delle tristezze sentimentali. Al commissariato trovai i genitori che mi insultarono dicendomi «Non ne mangiamo noi di questo pane» e restituendomi i 500 franchi che non volevo riprendere, e il dirigente che, proponendosi come inimitabile modello la prontezza di spirito dei presidenti di corte d'assise, prelevava una parola da ciascuna delle mie frasi e se ne serviva per forgiare una risposta arguta e schiacciante. Della mia innocenza riguardo al fatto non si parlò nemmeno, trattandosi della sola ipotesi che nessuno volle prendere sia pur fugacemente in considerazione. Tuttavia, le difficoltà dell'incriminazione fecero sì che me la cavassi con quella lavata di capo, estremamente violenta fin tanto che ci furono i genitori. Ma non appena se ne furono andati, il commissario, al quale piacevano le ragazzine, cambiò tono e, rimproverandomi da compare, «Un'altra volta, siate più accorto. Diamine, non si fanno approcci così bruschi, si rischia di sciupare tutto. D'altronde, ragazzine meglio di quella, potete trovarne dappertutto. E per me no. Era una somma follemente esagerata». Ero così sicuro che non m'avrebbe capito se avessi cercato di spiegargli la verità che approfittai senza una parola del suo permesso di andarmene. Tutti i passanti, finché non fui di nuovo a casa, mi parvero ispettori incaricati di spiare i miei movimenti e i miei gesti. Ma questo leitmotiv, non diversamente da quello della collera contro Bloch, svanì per non lasciar posto che a quello della partenza di Albertine, che riprendeva, ma da quando Saint-Loup s'era messo in viaggio, in una tonalità quasi gioiosa. Come il mio amico s'era assunto l'incarico di far visita a Madame Bontemps, le mie sofferenze s'erano dileguate. Credevo che fosse perché avevo agito, lo credevo in buona fede, perché non si sa mai cosa si nasconda nel nostro animo. In fondo, a rendermi felice non era, come credevo, il fatto d'essermi scaricato su Saint-Loup delle mie indecisioni. Del resto, non mi ingannavo del tutto. Lo specifico per sanare un avvenimento disgraziato, i tre quarti degli avvenimenti lo sono, è una decisione. Essa, infatti, grazie a un brusco rivolgimento dei nostri pensieri, interrompe il flusso di quelli che provengono dall'avvenimento passato e di cui prolungano la vibrazione, spezzandolo con un flusso inverso di pensieri opposti venuti dal di fuori, dal futuro. Ma questi pensieri nuovi sono per noi benefici, soprattutto quando, ed era il caso di quelli che m'assediavano in quel momento, è d'una speranza che dal fondo del futuro ci sono forieri. A rendermi felice, in fondo, era la certezza segreta che la missione di Saint-Loup non potesse fallire, che Albertine non potesse mancare di far ritorno. Me ne resi conto perché, non avendo ricevuto risposte da Saint-Loup sin dal primo giorno, ricominciai a soffrire. Non la mia decisione, non l'avergli delegato ogni mio potere erano dunque la fonte della mia gioia, che altrimenti sarebbe durata, bensì quel «il successo è sicuro» che avevo pensato mentre gli dicevo «accada quel che deve accadere». E ridestato dal suo ritardo, il pensiero che potesse in effetti verificarsi qualcosa di diverso dal successo mi era talmente odioso che avevo perduto ogni buon umore. In realtà, è la nostra previsione, la nostra speranza di avvenimenti felici a colmarci di una gioia che attribuiamo ad altre cause e che cessa per lasciarci ripiombare nel dolore non appena smettiamo d'essere sicuri della realizzazione del nostro desiderio. È sempre una fede invisibile a sostenere l'edificio, il mondo del nostro sentire, che, senza il suo sostegno, vacilla. Abbiamo visto come essa costituisca per noi il valore o la nullità degli esseri, l'ebbrezza o la noia di vederle. Allo stesso modo, essa fonda la possibilità di sopportare un dolore che ci sembra mediocre semplicemente perché siamo convinti che gli verrà messa fine, oppure il suo ingrandirsi repentino, sino a far sì che una presenza valga altrettanto, a volte persino di più, della nostra vita. Una cosa, peraltro, finì di rendere la pena del mio cuore acuta come era stata nel primo istante e come bisogna pur confessare che non era più. Fu il rileggere una frase della lettera di Albertine. Abbiamo un bel amare le persone. La sofferenza di perderle, quando nel nostro isolamento non abbiamo più davanti a noi che colei alla quale la nostra mente dà in una certa misura la forma che vuole, questa sofferenza è sopportabile e diversa da quella meno umana, meno nostra e imprevista e bizzarra come un incidente nella sfera morale e nella regione del cuore che ha per causa meno direttamente le persone in quanto tali che non il modo in cui abbiamo appreso che non le vedremo più. Albertine, io potevo pensarci piangendo dolcemente, accettando di non vederla più stasera come ieri, ma rileggere «La mia decisione è irrevocabile» era un'altra cosa. Era come prendere una medicina pericolosa che m'avrebbe provocato una crisi cardiaca a cui non si può sopravvivere. C'è nelle cose, negli avvenimenti, nelle lettere di rottura, una rischiosità particolare che amplifica e snatura lo stesso dolore che le persone possono provocare in noi. Ma quella sofferenza fu di breve durata. Ero, malgrado tutto, così sicuro che l'abilità di Saint-Loup avrebbe avuto successo e il ritorno di Albertine mi sembrò una cosa così certa che mi chiesi se fosse, da parte mia, ragionevole augurarmelo. Non di meno me ne rallegravo. Purtroppo per me, che credevo conclusa la faccenda del commissariato, Françoise venne ad annunciarmi che era venuto un ispettore ad informarsi se non avessi l'abitudine di tenermi in casa delle ragazze, che il portinaio, credendo che si parlasse di Albertine, aveva risposto di sì e che da quel momento la casa sembrava sorvegliata. Così mi sarebbe stato per sempre impossibile far venire, nei miei dispiaceri, una bambina a consolarmi, senza rischiare davanti a lei la vergogna che saltasse fuori un ispettore e che lei mi scambiasse per un delinquente. E insieme capì che si vive per certi sogni assai più di quanto non si creda, dal momento che la definitiva impossibilità di cullare una bambina mi parve togliere per sempre alla vita ogni valore. Ma capì anche fino a che punto è comprensibile che la gente tranquillamente rifiuti la fortuna e rischi la morte, mentre ci si figura che l'interesse e la paura di morire governino il mondo. Quanto, infatti, avrei preferito uccidermi al pensiero che anche una bambina sconosciuta potesse farsi di me, per la comparsa di un agente di polizia, un'idea vergognosa. Non c'era nemmeno fra le due sofferenze una possibilità di confronto.